la sera tace ogni voce, scende l'oscurità. Il mondo già riposa sotto il chiaror lunar. Nel nostro nido fatto di sogni resta vicino a me. Tutta la vita intera sempre sarò con te sussurrando. Buonanotte, ogni notte la tua bocca bacerò, sussurrando. Buonanotte, ogni notte nei miei sogni ti vedrò. Le mie labbra sulle tue labbra fino all'ultimo respiro poserò, sussurrando buonanotte, ogni notte la tua voce bacerò. Buonanotte sussurrandoti.